Per intanto, ecco a voi la terza conversazione delle quattro che, esagerando un po', ci ha mandato l'amico Michael Zeller. Prego. Terza conversazione. Aprendo il Corriere della Sera il 18 novembre, due titoli di prima pagina mi hanno colpito. Il primo titolo era «Ustica è svolta, gli USA mentirono». Il secondo titolo, più in basso, era «La scienza mette in dubbio gli specchi che 2000 anni fa salvarono Siracusa, il laser di Archimede, un falso storico». Il mio istinto di cacciatore mi ha suggerito subito che tra le due notizie, quella su Ustica e quella sugli specchi di Archimede, correva un legame sotterraneo, esoterico, misterioso. Mi sono aggirato come un cane da caccia che stia per trovare la traccia della selvaggina. Poi, improvvisamente, l'illuminazione. Ecco un legame. Ustica e specchio Ust-Orio. Forse questo Ust poteva illuminarmi. Mi sono precipitato sul dizionario d'italiano ed ecco che cosa ci ho trovato. Usta, odore caratteristico che gli animali selvatici lasciano sul terreno e che è seguito dai cani da caccia. Capito? Dunque questa usta era la traccia giusta, ma doveva essere anche l'indizio di un legame più importante tra le due notizie. Poi la seconda scoperta. Che cos'era il famoso specchio Ust-Orio di Archimede? La storia, o meglio la leggenda, lo dice chiaramente. Era un'arma bellica per distruggere il nemico sul mare antistante la Sicilia. Più strage di Ustica di così, si muore. Un momento però. Gli specchi di Archimede, un falso storico. È questa la grande scoperta dei giornali? Quando anche i lettori della Settimana Enigmistica hanno sempre saputo che l'impresa attribuita ad Archimede era fisicamente irrealizzabile, a meno che i romani si fossero offerti di stare per ore immobili per permettere al calore solare riflesso di raggiungere la temperatura necessaria per abbruciacchiare un po' il legno delle loro triremi. Insomma, un titolo in prima pagina per annunciare ciò che scienziati e lettori sapevano almeno da decenni. Mentre invece la notizia su Ustica sì che è una novità. Anche gli americani, come già gli aviatori italiani, hanno sempre mentito su ciò che accadde quel giorno. Tra le due notizie vorrei sapere quale è la più scontata.